Capitolo 32. Ferrara, 21 marzo 1550. Scivoliamo silenziosi dentro il vicolo, senza guardarci alle spalle. Ci fermiamo, fingendo di parlottare. Nessuno ci segue. Proseguiamo fino alla casa. 3 colpi più 1. Chi è? Pietro e Tiziano. La porta si apre. Una faccia tonda, barba nera, arricciata e baffi a punta. Venite, venite! Vi stavamo aspettando. Ci conduce attraverso una bottega ingombra di attrezzi e tavoli da lavoro. Il pavimento è coperto di trucioli che scricchiolano sotto i nostri piedi. Saliamo una scala fino all'abitazione. Sono in 4 ad aspettarci, reclutati nell'ultimo anno e ribattezzati da Tiziano in persona. Il falegname ci offre sgabelli che odorano di legno tagliato di fresco. Hai spiegato tutto? È meglio che lo fai tu. Annuisco. Prima che termini la frase. Li squadro, facce deferenti. È piuttosto semplice. Io e Pietro stiamo pensando di radunare i confratelli in un concilio. Dobbiamo conoscerci, contarci. Qualche sussulto. Finora non ho fatto altro che battezzare, predicare e battezzare senza fermarmi un attimo. Pietro, negli ultimi mesi, ha percorso il Granducato e le Marche in lungo e in largo. Adesso è tempo di raccogliere. E che anche voi facciate la vostra parte. Uno di loro non si fa scrupolo di interrompermi. Quando? Occhiate di disapprovazione da parte degli altri, ma non ci faccio caso. In autunno, dove è ancora da decidere. Per adesso è necessario mettersi in marcia per contattare tutte le comunità, tra cui e gli Abruzzi. Ogni comunità dovrà inviare 2 rappresentanti. Il luogo che sceglieremo per il concilio sarà reso noto una volta che saranno giunti a Ferrara. È meglio non correre rischi inutili. Ferrara, 21 marzo 1550. Un'ora prima. Perché un concilio? Dobbiamo sapere quanti siamo, dobbiamo organizzarci. È pericoloso, Tiziano, l'Inquisizione sa malapena chi sono. Di te non sa niente, di sicuro non sospetta che siamo in molti. Tu non ti preoccupare, continua a fare sempre soltanto il mio nome. È l'unico che i fratelli devono conoscere. Ma se qualcuno di loro fosse catturato... Tu saresti il primo ad andarci di mezzo. Io? Soltanto io, nessun altro. Li conosci quelli? Non gli interessano i proseliti. Vogliono l'eresiarca. Vediamo. Dio ci scampi, ma un concilio esporrebbe tutti al rischio di essere scoperti. Sarà clandestino. Stammi bene a sentire, Pietro. È per questo che non voglio più di 2 rappresentanti per comunità. Non saremo meno di 50, ma neanche più di 100. E se aspettassimo di vedere cosa farà il nuovo papa? Non sappiamo se si schiererà con gli zelanti o con gli spirituali. Non si schiererà. Cosa? Non si schiererà. Io l'ho conosciuto. Non sceglierà un partito, è la via più difficile, perché lo condanna ad accontentare tutti. E gli interessi degli uni sono la rovina degli altri. Come? Quando hai conosciuto il Papa? Prima che lo eleggessero. Gli ho parlato a lungo. Sull'Inquisizione la pensa come noi. È contrario ai metodi di Carafa e dei suoi amici. Sa che se darà loro carta bianca ci andranno di mezzo un sacco di innocenti. Mi promise di intercedere personalmente presso il generale dei Benedettini per la scarcerazione di Fontanini. Quel Fontanini? Benedetto da Mantova, l'autore del beneficio di Cristo? Adesso è di nuovo libero. Non ti sembra un segno sufficiente a farci tirare un po' il fiato? Il concilio dobbiamo farlo prima possibile, prima che gli equilibri cambiano di nuovo e magari qualcuno forzi la mano al Papa. Sono quasi certo che Giulio III, al fondo, è aperto al dialogo con la fede riformata, solo che non può dirlo né darlo a intendere esplicitamente, perché sa che la sua elezione è stata frutto di un compromesso. Deve comportarsi di conseguenza, come dite voi, dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Se credi che sia la cosa giusta da fare, io sono con te. Pietro Manelfi mi cammina al fianco nella Via delle Volte. L'ho conosciuto a Firenze, chierico marchigiano, suddito ribelle del Papa. Un travaglio spirituale cominciato anni fa che lo ha portato ad abbandonare il seminario e a scivolare sempre più velocemente su quel crinale sottile che separa l'afflato mistico dall'eresia. Le ho fornito le risposte che cercava e mi si è attaccato come un cane al padrone, il primo discepolo di Tiziano. Per metterlo alla prova, l'ho spedito nella sua terra a far proseliti. Poi mi ha raggiunto qui, carico di speranza. Prega troppe volte al giorno, ma ha una memoria eccezionale. Ricorda luoghi, nomi e mestieri di tutti i battezzati. Mi aiuta a tenere la corrispondenza con i confratelli. A tutti parla di me. Fuori da Ferrara, nessuno conosce nessun altro eccetto il misterioso Tiziano. Se dovessero essere arrestati, non potrebbero tradirsi a vicenda. Soltanto Tiziano, la lepre, il bersaglio. Passiamo sotto gli archi che sorvolano la via. Una strada che non dorme mai. Un grande affare di conciatori, fabbri e calzolai di giorno, di cosce tette di notte. Scivoliamo silenziosi dentro il vicolo, senza guardarci alle spalle. Ci fermiamo, fingendo di parlottare. Nessuno ci segue. Proseguiamo fino alla casa. 3 colpi più 1. Chi è? Pietro e Tiziano. A Ferrara si sta bene. È una città in cui tutto gira a un ritmo particolare. Tutto si incastra. Ma non come a Venezia. Venezia è complicata. A Venezia muovi uno spillo e rischi sempre di pungere il culo di un gigante. Ferrara è piccola e abbarbicata contro il fiume, ma ti concede lo stesso di perderti nei vicoli più antichi. Ferrara è più libera, verrebbe da dire più leggera, meno affollata, con meno sbirri e spioni. A Venezia hai sempre gli occhi di qualcuno addosso, qui no. Passeggi senza doverti sempre fermare, fingendo di aver perso la strada per vedere se dietro di te c'è qualche altro finto tonto. Un'abitudine salutare, ma inutile a Ferrara. Qui stai tranquillo. Ercole II si riempie la bocca di sorrisi per il Papa, ma intanto lascia che nella sua città trovino scampo le menti più attive e pericolose d'Italia. Ama avere il palazzo pieno di letterati e non lascia mai spegnere il lume sulla tomba di quel Ludovico Ariosto che qui venerano come un santo. Deve spiacergli davvero molto di non aver sotto mano gente di quel calibro. Poi c'è Renata, la vedova di Alfonso d'Este, che non si fa scrupolo di ostentare le sue simpatie calviniste. Sono in parecchi a essersi rifugiati fra le sottane della principessa per sfuggire a sbirri e inquisitori. Anche i giudei se la passano niente male, come a Venezia, ma qui più che altro fanno gli usurai, prestano il denaro a un interesse più basso che i loro fratelli lagunari e fanno buonissimi affari. Il denaro circola, non si ferma mai. E questo è il segno della buona salute della città. La giustizia è amministrata equamente, senza troppi magistrati e poliziotti e tribunali che impieghino mesi per decidere le rispettive competenze su un caso di rissa aggravata dal morto. Qui fanno presto. Se ti fai notare troppo, ti accompagnano ai confini. Se ammazzi qualcuno, ti accompagnano dal boia. Un vecchio ubriacone che vive sulle mura settentrionali e mentre lavora canticchia canzonacce oscene. Se due hanno dei conti da regolare, si danno appuntamento al vicolo dei duelli. Una viuzza stretta e chiusa su entrambi i lati da spessi cancelli. Entrano in due, ne esce uno solo. Tutto senza troppo rumore, senza turbare la quiete attiva di questa città. Il mio Anabattista ci sta come un pesce in uno stagno. Ho raccolto una mezza dozzina di adepti, non soltanto ferraresi, disposti a partire alla volta di altre città per diffondere la nuova fede e ribattezzare. Intanto gestisco anche l'altra metà di me, incontrando Beatrice in casa sua, dove entro, passando da un pertugio sul retro. I Mickets mi fanno pervenire messaggi tramite il Q, l'oste del Gorgadello, la miglior cantina della città, proprio di fianco alla cattedrale. Dicono che ci andasse a sbronzarsi l'Ariosto e qualcuno si ricorda anche di averlo sentito declamare più di una volta i versi del suo Orlando Furioso. Il Chiucchiolino, detto Q, da quelli a cui concede credito, è un essere impressionante. Gli occhi gli stanno ai lati della testa, come quelli di un rospo, e puntano in direzioni diverse. Una cresta leonina di riccioli neri grossi e arruffati come setole di un cinghiale gli ricopre la fronte. È un uomo importante, essenziale per questa città. Se hai un problema, puoi parlarne col Q e vederti raccomandare presso una persona che quasi sicuramente risolverà i tuoi guai. Il Q è la banca dei segreti. A lui puoi dire di tutto e stare certo che non aprirà bocca con nessuno, che accumulerà le informazioni nella cassaforte e te le restituirà con gli interessi, sotto forma di consigli, nomi e recapiti a cui rivolgerti. Anche i miei segreti sono in quella banca. La chiave, pochi segni convenzionali. Vino, nessuna novità. Acquavite, notizie importanti. Oggi ho offerto acquavite, dai Mickets al tramonto. Attraverso la città, fino a raggiungere casa mia. Una piccola stanza in cui uscire dai panni di Tiziano e riposare qualche ora. Accendo il fuoco nel piccolo camino e metto a scaldare l'acqua. Venezia mi ha abituato a lavarmi spesso, al punto che è diventata una consuetudine, scomoda e costosa abitudine per uno che è sempre in viaggio. Resto nudo, a perlustrare 50 anni accumulati nelle membra, segni antichi e qualche pelo bianco sul petto. Per fortuna, non ho lasciato ai muscoli il tempo di rilasciarsi troppo. La forza c'è ancora, più statica, più solida e coriacea. Ma i reumi non mi abbandonano mai. Soltanto d'estate riesco ancora ad avere pace, distendendomi al sole come una lucertola e lasciando asciugare tutta l'umidità di queste terre basse. Ho anche scoperto che non piego più la schiena completamente, se non a rischio di fitte lancinanti, e ogni volta che posso evito i cavalli. Strano come in vecchiaia si impari ad apprezzare i gesti semplici, come si sia più disposti a perdere tempo lasciandosi cullare da una poltrona comoda, all'ombra di un albero o a rigirarsi nel letto, a caccia di un motivo valido per alzarsi. Asciugo meticolosamente ogni angolo del corpo, mi stendo sulla branda e chiudo gli occhi. Mi basta un brivido appena avvertito per togliere i vestiti puliti dall'unico baule che ammobilia la stanza, i miei eleganti vestiti veneziani, un cappellone largo, sotto il quale nascondere la faccia, lo stiletto sottile da portare in cintura. Il rintocco. È quasi ora di andare. I capelli neri sulla spalla odorano d'essenze. Percepisco quel corpo caldo, premuto ancora contro il mio, che posso avvolgere in un abbraccio di mani e gambe e piedi. Quasi non credevano alle parole del mio racconto, l'incontro con il futuro Papa, l'intercessione per scarcerare Fontanini. Non vedo il volto, ma so che è sveglia e forse sorride. Un paradosso. O il concilio ha sbagliato a scomunicare il beneficio di Cristo, oppure il Papa è eretico, ha detto Joao. Vorrei dirle qualcosa, qualcosa che descriva la commozione che attanaglia lo stomaco e che quasi mi fa piangere. Né zelante né spirituale, Giulio III è un equilibrista. Alla fine starà con chi avrà avuto la meglio. I giochi sono ancora aperti. Sono troppo vecchio per parlare d'amore, una cosa che ho relegato agli angoli della vita e che sono sempre riuscito a sacrificare, negandomi l'intimità di istanti come questo, la possibilità stessa di prolungarli negli anni, concedendo loro di cambiare il destino. «Come superare questo stallo?» ha chiesto Duarte. «Cosa fare del beneficio, ora che si trova in cima alla lista dei libri proibiti appena promulgata dall'Inquisizione veneziana?» Per lei non deve essere stato diverso. Storie simili, in fondo, le nostre. Storie che non ci siamo raccontati. Domande non fatte. «Andare avanti», ha detto. «Sicura, stupendoci ancora una volta. L'Inquisizione non può far nulla senza l'appoggio dell'autorità locale. Venezia sa come difendersi dalle ingerenze di Roma. Andare avanti. Continuare a fomentare lo scontento verso la Chiesa». Beatrice resta immobile e mi lascia ascoltare il suo respiro, come se sapesse cos'è importante, come se condividesse gli stessi pensieri. «L'hai trovato?» «Chi?» La mia voce sembra uscire da una grotta. «Il tuo nemico?» «Non ancora, ma sento che è vicino». «Come puoi esserne sicuro?» Sogghigno. «Solo così trovo la forza di non restare qui con te fino alla morte».